Ecco, cari amici, anche stamattina sto celebrando messa a porte chiuse assieme alla mia fedele Esther, che mi fa da chierichetta, mi fa da sacrestana, mi fa da sorella, in modo che... E allora, così volevo rivolgervi un pensiero. Siccome frequentemente, e proprio anche stamattina, la gente si rivolge al sacerdote per raccomandare se stessa, raccomandare magari i propri cari che stanno male. Uno mi dice: ho il papà che è gravissimo all'ospedale, preghi. E io gli rispondevo con un messaggio di WhatsApp, dicevo: guarda, chiamo proprio il Signore al capezzale di tuo papà per chiedergli quello che lui vuole dare a tuo padre. E il sacerdote ha il coraggio di dire che se vuole la salute, gli dia la salute, e se lo vuole portare con sé, che lo porti con sé. Io non voglio essere un consolatore a tutti i costi con la consolazione di questo mondo. Voglio essere una persona, vorrei essere una persona sintonizzata col volto di Dio, col volto di Gesù. E dire: Signore, venga il tuo regno in questo papà, venga il tuo regno in tutti coloro che si raccomandano, perché se è tua volontà la guarigione, che avvenga, perché diventino servitori del Vangelo, servi del Vangelo. Ma se tu hai pensato di portarli nella vita eterna, io non posso illudere le persone e garantire. Che cosa garantisco? Garantisco che si compia la volontà di Dio. E allora sono entrato nella Santa Messa così con questo pensiero e tra l'altro ho incontrato anche un salmo, il salmo responsoriale, e la Chiesa parla frequentemente non della morte, parla di questa vita e della vita eterna, certo che poi deve passare attraverso la porta stretta della morte, ma... No? Il Salmo 48 diceva, tra le varie cose, periranno insieme lo stolto e l'insensato e lasceranno ad altri le loro ricchezze. Il sepolcro sarà loro eterna dimora, ma, aggiunge, Dio riscatterà certamente la mia vita. Mi strapperà dalla mano degli inferi, dalla mano della perdizione. Non temere se un uomo arricchisce, quando muore, infatti, con sé non porta nulla. Anche se da vivo si congratulava con se stesso, e ti è andata bene. Anche lui andrà con la generazione dei suoi padri che non vedranno mai più la luce. È veramente strano, amici. Non è strano, è perché noi non consideriamo le cose dal punto di vista di Dio, ma siamo mondani, come Papa Francesco continua a ripeterci. Forte è questa parola, siamo mondani. Noi alla morte, cioè al secondo atto della nostra vita, nella vita eterna, noi non ci pensiamo mai, mai. E allora io con questo sentimento... Oggi, celebrando messa da solo, sono andato a cercarmi sul messale. In fondo al messale ci sono delle messe per varie circostanze. Ieri ho detto la messa in onore dell'Eucaristia. Oggi ho trovato questa messa. Messa per chiedere la grazia di una buona morte. Non dovete saltare sulla sedia, amici. Dobbiamo chiederla questa grazia. I nostri vecchi, che la sapevano più lunga di noi, la chiedevano questa realtà, grazia di una buona morte. E allora veramente noi dovremmo chiedere proprio al Signore questo dono di prepararci. voi sapete che il patrono della buona morte è San Giuseppe, no? Perché la tradizione della Chiesa pensa che lui, essendo più vecchio, sia morto prima di Gesù e prima di Maria, e ci sono vari dipinti che lo rappresentano sul letto della morte, attorniato da Maria e da Gesù, ed è considerato il patrono della buona morte. Io chiamo molto San Giuseppe, come tutti i santi, ma lui in particolare, perché è la mia difesa anche dai demoni, terror demonum, è il terrore dei demoni. Allora gli chiedo sempre: oh San Giuseppe, ti prego, prepara per me una buona e santa morte. Una santa morte è logico, ma anche ti chiedo anche una buona morte. Perché? Perché lo sai che io sono un pauroso, no? E ne ho viste e ne vedo di persone che muoiono dopo preparazioni lunghe, dolorose, sofferte. E io ti dico, San Giuseppe, se puoi ottenermi da Gesù e da Maria, che prega nell'ora della mia morte, una morte santa, ma anche una morte buona, e io te lo chiedo. Quando parlo di queste cose, magari chi mi segue dice: è comoda, eh? No, comoda, chiedila anche te. Chiedi anche te una buona e santa morte. Ma tu non la chiedi, eh? Tu sei una persona che sei radicata su questa terra. Oh, ve la farei lunga, diventa troppo lunga, ma vi leggo solo qualche parola di questa santa messa, eh? O Dio, che nella morte del tuo unico figlio hai distrutto la nostra morte, per la potenza del tuo sacrificio donaci di essere come lui, obbedienti alla tua volontà sino alla fine, perché in un sereno passaggio alla vita eterna possiamo partecipare alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Ecco, questa è l'orazione detta, ma come sarebbe bello, lo auguro anche a tutti voi, di, ve lo sto insegnando insomma, no, di scomporre le orazioni frase per frase, componente per componente, per gustarle. E lo scopriremo che ci rivolgiamo al Padre. Io vi auguro di rivolgervi al Padre, il naufragar me dolce in questo mare, nel seno del Padre. Però siamo sempre uniti a Gesù, con Gesù, perché in un sereno passaggio alla vita eterna possiamo partecipare alla gloria della risurrezione. Mi fermo qui, perché sennò viene fuori una predica da esercizi spirituali, non da giorno feriale. Ma ancora una volta spero di insegnarvi, insomma, un po' di metodo. La liturgia come fonte di preghiera, e della preghiera meditata e del cuore. Ciao.